in primo piano. Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. Buongiorno, buongiorno, è veramente un buongiorno oggi. Vediamo che dai titoli dei giornali non è così tanto atteso questo giorno. Il Sole 24 Ore, l'economia italiana peggiora, la velocità delle riforme è tutto. Parleremo poi di questa intervista al nostro direttore Roberto Napoletano del ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Intanto vi saluto, un saluto quindi dalla redazione di Elisabetta Fiorito, in regia c'è Valerio Rocchetti. Parleremo anche con il nostro ospite di stamattina, Antonio Castro, capo servizio economico di Libero, della guerra delle valigie, quello che sta succedendo negli scali italiani. Buongiorno Antonio. Buongiorno, buongiorno. E vi ricordo anche il numero dei nostri sms 349-238-6666. Allora, andiamo subito ai titoli dei vari giornali. Abbiamo detto il Sole 24 Ore, l'intervista del ministro Padoan a Roberto Napoletano. Il Messaggero, effetto PIL, tagli alle detrazioni. Oggi il dato Istat, ipotesi crescita zero. Il governo corre ai ripari, sconti fiscali nel mirino. La Confcommercio, gli 80 euro sono serviti a poco. E invece Renzi, che replica, in 11 milioni hanno apprezzato. Repubblica invece apre con Spending Review, ecco tutti gli sprechi di enti e ministeri, dossier di Cottarelli e Cantoni, violate le norme, Confcommercio 80 euro inutile, scontro con Renzi, l'Istat oggi annuncia crescita a meno 0,1%. Italia Style, il manifesto, le previsioni del Premier smentite dai fatti, per Confcommercio l'impatto del bonus è di 80 euro è invisibile. Anche il giorno Renzi insiste, la ripresa c'è, ma Confcommercio nessun beneficio dagli 80 euro. Italia al palo, il secolo XIX, Renzi accelera. Italia Oggi invece, addio a 13 paradisi fiscali, tra i quali figurano Andorra, Antigua, Santa Lucia. Abbiamo poi anche il Foglio, che parla del decreto della pubblica amministrazione tra decimazione e privilegio. Il Corriere della Sera invece fa un'altra apertura, processi, cambia la prescrizione, il piano del governo sulla giustizia, priorità alle cause civili, riforma al Senato passa per un soffio, il no ad amnistia e indulto. Domani Renzi in aula, si parla ovviamente della riforma del Senato. La Stampa, Europa fai muro contro Putin, l'intervista a John Kerry, sosteniamo l'agenda economica di Renzi, il segretario di Stato americano, speriamo che Bruxelles promuova l'iniziativa egiziana per il Medio Oriente. Poi abbiamo, come abbiamo detto, Libero, la guerra delle valigie, figuraccia mondiale, fuga da Alfano, il giornale, Nord in rivolta, i colonnelli lombardi, nuovo centrodestra, attrazione sudista, meglio tornare con Forza Italia. Il Fatto Quotidiano invece, pensioni, tagli e stipendi, i professori messi in croce. Allora, andiamo subito a leggere un estratto dell'intervista del nostro direttore Roberto Napoletano sul nostro giornale Il Sole 24 Ore al ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Sulla faccia di Piercarlo Padoan, persona seria e timoniere dell'economia, è stampata la delicatezza del momento. L'attesa dei dati Istat di questa mattina per lui è già un'amara realtà. Il ciclo non si è invertito, non siamo nemmeno immobili. La verità è che continuiamo a scendere. Il motore dell'economia italiana perde giri. Finiremo con la troica, butto lì, dice Napoletano. No, no, assolutamente no, urla e aggiunge, la prego, lo scriva a caratteri cubitali, lo dice questo il ministro. Si ferma per un attimo, ancora uno scatto e poi di getto. Il paese deve riformarsi da solo e lo sta facendo, dobbiamo farlo ancora più in fretta. Sulla crescita in Europa quasi tutti sono messi male, ma noi siamo sempre peggio di tutti, abbiamo un debito pubblico che non teme confronti. Sulla debolezza italiana pesano ovviamente i focolai di crisi internazionali, soprattutto quelli che riguardano l'energia e l'Ucraina. Dobbiamo coprirci da nuovi rischi. Il quadro finale non può che uscire ulteriormente deteriorato e alimentare gli interrogativi dei mercati. Io so e i mercati sanno che il paese è fortemente orientato a sostenere la crescita, ci vorrà più tempo, ma non li deluderemo, scandisce con voce ferma. Ministro Padoan, chiede Napoletano, è un po' di tempo che la sentiamo ripetere che l'economia è ferma, non si riprende. Che fa? Si iscrive anche lei al partito dei gufi? Risponde Piercarlo Padoan. No, non mi iscrivo a nessun partito dei gufi, sono sempre stato iscritto al partito dei realisti e qui il resto. I dati dell'economia, anche più recenti, confermano un'economia che stenta a uscire dalla recessione. Rimango però convinto che esistano segnali positivi che andranno apprezzandosi nei primi prossimi trimestri e nei primi anni. Antonio Castro, capo servizio appunto di Libero, di economia, insomma, mi sembra che questa cautela del ministro Padoan si scontri poi con l'ottimismo di Matteo Renzi, due visioni molto distanti della situazione economica italiana. Antonio? Per la verità c'è poco da essere ottimisti, perché ieri sera Goldman Sachs ha rivisto l'outlook sul nostro paese e ha detto siamo sempre più preoccupati per l'Italia, dove nei mesi scorsi i dati sull'attività economica hanno continuato a sorprendere al ribasso e le riforme istituzionali e strutturali non sono ancora state messe in atto. Questo ha influito sullo spread dei nostri titoli di Stato, ma soprattutto ha dato un segnale su quello che è stato promesso e non fatto. Il problema vero è che oggi alle 11 l'Istat darà i risultati della crescita del PIL, se crescita sarà, se non sarà addirittura un dato negativo, 0,1% in più, 0,1% in meno, ma il problema non è la dose omeopatica di crescita per il nostro paese, che è l'ultimo nell'Eurozona e nell'Europa. Il problema vero è che le riforme promesse in Europa con l'arrivo di Renzi sono state implementate, tante promesse ma pochi decreti attuativi, tanti pasticci in Parlamento con provvedimenti che vanno e vengono e vengono corretti all'ultimo momento in una corsa costana che non si era mai vista. E il problema adesso è vedere se gli 80 euro sono stati o meno positivi per il PIL. Secondo la Confcommercio ovviamente no, perché questa dilazione, che poi non sono 80 euro ma la suddivisione matematica dei primi 1,7 miliardi distribuito è di 72-73 euro per i redditi sotto i 26.000 euro, non ha avuto quell'effetto a caduta sui consumi, e questo lo dimostrano anche i dati Eurostat, perché i dati italiani ancora non ci sono, sui consumi al dettaglio, che sono caduti talmente in basso i consumi che la Coldiretti dice che sono tornati a 33 anni fa. Praticamente gli italiani hanno fatto di necessità virtù e perciò hanno ridotto dove potevano tagliare le spese per scarpe, abbigliamento, ma hanno iniziato anche a tagliare sull'alimentare, sui prodotti, non comprano più prodotto di grido, comprano il prodotto low cost, il prodotto in offerta, e l'analisi delle vendite dimostra un'attenzione maniacale quasi al risparmio di centesimi, e questo qua è, c'è poco da discutere, sono dati da sovvertire, ma sovvertire con provvedimenti. Bisognerà vedere adesso che cosa succederà nei prossimi mesi, perché a settembre bisognerà fare la nota d'aggiornamento del DEF, bisognerà poi approntare anche la legge di stabilità per il 2014 entro il 20 ottobre. Sono tutti provvedimenti che dovranno confermare o meno la linea del governo e soprattutto provare a ribaltare quello che è stato definito lo screzio tra la Confcommercio, che dice che gli 80 euro sono stati ininfluenti, e Matteo Renzi, che va avanti dritto e dice 11 milioni di italiani hanno apprezzato. Sicuramente hanno apprezzato avere qualche euro in più. Insomma, non hanno avuto questo effetto. Infatti, a un certo punto Napoletano chiede proprio a Padoan, il presidente della Confcommercio, Carlo Sangalli, ha detto che l'effetto degli 80 euro è quasi invisibile. Renzi ha risposto che la ripresa è come l'estate, prima o poi arriva. Si è mai pentito di aver iniziato dal bonus IRPEF e non dall'IRAP? Risponde Padoan, non mi sono mai pentito, naturalmente avrei voluto avere a disposizione risorse per fare di più, ma è importante del bonus IRPEF ricordare due cose: la prima riguarda 11 milioni di persone, la seconda sarà permanente. Poi Napoletano dice, sia sincero ministro, premesso che il paese non è in grado di sopportare un'altra manovra, come fa con questi numeri ad essere così sicuro di poterle evitare? In base alle informazioni che ho adesso, alle previsioni che abbiamo abbiamo aggiornato con le nuove informazioni Istat, ribadisco il fatto che non ci sarà bisogno di una manovra aggiuntiva. Tu ci credi, Antonio? Io credo che nel mare magnum dei conti pubblici ci sia spazio e manovra per intervenire. È vero che non ci sarà forse una manovra aggiuntiva perché il paese è veramente stremato e perciò non è possibile alzare le tasse. È possibile però intervenire sui 250 milioni di detrazioni, deduzioni fiscali e agevolazioni. L'elenco Ceriani, il consigliere del ministro Padoan che stava in Banca d'Italia per 30 anni, e segna oltre 700 voci che contribuiscono a erodere il gettito fiscale. Basta intervenire su questa leva, e questo si sta facendo, si sta ipotizzando di fare, per agguantare quei 20-30 miliardi che servono per centrare gli obiettivi 2014. Perciò non sarà una manovra di tasse, sarà una manovra di taglio dei benefici, nella speranza che si abbiano le tutele che sono state promesse per le famiglie e per le imprese, perché se si vanno a tagliare dei minimi benefici, penso alle detrazioni per i coniugi piuttosto che per i farmaci o per le spese mediche, e non si interviene su altre agevolazioni, la frittata viene fuori male, e questo è il problema, a prescindere da dove si prende o non si dà. Il problema è che l'Italia è allo stremo dopo anni di crisi, dopo anni di grandi manovre e di grandi tagli e di grandi interventi sulla spesa sociale. Per esempio, ci sono dati sulla spesa sociale italiana e siamo agli ultimi posti in Europa, è vero. Il problema è che forse quei pochi soldi che mettiamo, l'1% del PIL, vengono pure spesi male spesso. Allora, intanto un altro capitolo, no? Sappiamo, è la famosa spending review, o spending review a secondo delle pronunce. Dov'è finita la spending review, dice Napoletano? Resterà Cottarelli? Anche per lei farne a meno non è così grave, dice Padoan, ministro dell'economia. La spending review è viva e vegeta, continua e viene introitata nel lavoro dei ministeri, sicuramente sarà un elemento importante della costruzione della legge di stabilità del 2015. Su Cottarelli posso dire con la massima stima e apprezzamento per il suo lavoro. Spending review, review, come volete leggerlo, ecco tutti gli sprechi di enti e ministeri, è l'apertura di Repubblica. Segnalo anche un editoriale, un articolo di Federico Fubini, che dice: c'è un colpevole seriale di malagestione, come il Comune di Roma, insieme a giunte del centro e nord come Perugia, Pesaro, Urbino, Verona, Udine, Sondrio, Trieste o Bolzano. Spunta anche la Statale di Milano con l'Università di Genova. Ci sono aziende sanitarie della procedura d'appalto singolari in Sardegna o in Campania, e non mancano neanche coloro che dovrebbero tenere al rispetto della legge più di ogni altro ramo dello Stato: i Carabinieri, la Polizia e il Ministero della Difesa. Tutti i destinatari delle lettere di Raffaele Cantone e Carlo Cottarelli alle amministrazioni che è il sospetto hanno violato le norme sugli appalti da tenere solo ai prezzi più convenienti per i contribuenti. Cottarelli e Cantone sono rispettivamente commissario straordinario alla revisione della spesa e presidente dell'autorità anticorruzione. Già solo i loro ruoli rendono la lettera partita a giugno un atto pieno e significativo. E qui continua. Insomma, c'è stato poi questo, non si capisce se Cottarelli è stato commissariato oppure no, Antonio, che doveva finire questa spending review, che sono appunto i tagli alla spesa pubblica, gli sprechi della spesa pubblica, perché poi i nostri servizi lasciano a desiderare, ma la spesa pubblica ancora è molto alta. La spending review prende l'eredità anche dello studio Ceriani. E il problema vero è che tra i tempi di annuncio a Palazzo Chigi in maniche di camicia e l'applicazione pratica dei provvedimenti, quello sulle auto blu che dovevano essere vendute su eBay, ne sono state vendute una dose veramente infinitesimale. E il problema vero è intervenire sui costi, le centrali di costo. E diceva Andreotti che far sospendere per un po' la normale uscita di quattrini non era una cosa così cattiva, perciò l'esercizio provvisorio riusciva a contenere le spese. Forse va rispolverata Andreotti in questa in questo intento di risparmio un po' casalingo, che non si chiama spending review, si chiama esercizio provvisorio, ma questo non ci è consentito dall'Europa, che vuole una legge di stabilità entro il 15 ottobre a Bruxelles, vuole vederla, vuole leggerla, vuole vedere se è sostenibile, anche perché non si fidano delle nostre promesse. E il problema è intervenire con la spending review intelligentemente. Faccio un esempio: le casse di previdenza dei professionisti, che movimentano più o meno 60 miliardi di euro, sono sottoposte da qualche anno alla spending review, vale a dire i dipendenti, piuttosto che il parco macchine di queste casse, vengono trattati come se fossero branche dello Stato. Il problema è che i risparmi fino all'anno scorso finivano nella fiscalità generale. Quest'anno, a dir la verità, Matteo Renzi e prima ancora Padoan e prima ancora Saccomanni hanno deciso che gli eventuali risparmi delle casse di previdenza, un centinaio di milioni, vanno alle casse per fare solidarietà, welfare di categoria. Questo è un modo forse intelligente di applicare le cose, di applicare anche i provvedimenti. Certo, se poi non si può intervenire sul costo di acquisto di una scrivania piuttosto che di una sedia, allora diventa la burocrazia, diventa il datore di lavoro della politica a questo punto. Ecco. Se non si interviene su questo, difficilmente la spesa pubblica, l'enorme spesa pubblica verrà contenuta. Allora, intanto leggiamo qualche sms dei nostri radioascoltatori che dicono che non sia mai intervenire sull'evasione fiscale, e questo è un altro tema dei tormentoni italiani, che poi alla fine tutti promettono e nessuno fa. Gli 80 euro sono per comprare i voti, dice un altro radioascoltatore. Sangalli, come altri personaggi con la sua associazione, sono responsabili del disastro di quest'ultimo ventennio che ha messo il paese in ginocchio, si firma Maurizio. Ricordiamo 349-238-6666. Noi diamo la linea alla regia per ritornare subito dopo con Antonio Castro di Libero. In primo piano. E noi torniamo qui a parlare di economia, ma questa volta anche di figuraccia mondiale. Il titolo di Libero: la guerra delle valigie, i facchini di Alitalia lasciano i bagagli in mezzo alla pista per protesta contro l'accordo con gli arabi. Caos a Fiumicino, 100 voli rovinati, passeggeri costretti a partire in camicia, la CGIL si divide, imitiamo Reagan, mandiamo tutti a casa. Un editoriale del direttore Maurizio Belpietro, appunto, ovviamente, negli ultimi giorni la sfortuna di incappare nell'assemblea sindacale dei dipendenti all'Italia di aver scoperto l'esistenza di bagaggisti e scalisti. Ciò che sta succedendo nell'Italia è noto: dopo anni di eccessi e di cattive abitudini, la società è costretta a fare i conti con la realtà e dunque con le perdite di bilancio. Fino a che c'era lo Stato, non c'era l'Europa a dettare le regole anche per quanto riguarda gli aiuti pubblici, la gestione del vettore nazionale non era un problema. Adesso però lo è, e c'è proprio un tuo articolo, Antonio Castro, che dice: bagagli e vacanze non vanno esattamente d'accordo, se poi di mezzo ci si mettono buona parte dei 400 addetti di Italia Handling, la società che gestisce i servizi a terra, il carico e scarico dell'aereo. A Fiumicino è scientifico il caos con un centinaio di voli coinvolti. Allora, Antonio, qui stiamo facendo un'altra brutta figura soprattutto questo accordo che sembrava fatto, no, con Etihad, regge, non regge? È possibile che ogni volta che si firma un accordo in Italia poi c'è un sindacato a cui non si era pensato? Allora, Il problema dei bagagli, iniziamo a limitarlo, non è uno sciopero ma è un'assemblea. Sono assemblee rispetto alla virgola del contratto di lavoro, con tutte le normative che comporta, i tempi di produttività del contratto firmato dai dipendenti dell'Italia Handling, che sono 430 mi pare. Il problema vero è che questi signori adesso si trovano nelle liste di mobilità. Il paradosso è che chiunque sbarchi a Fiumicino o in uno scalo mondiale ha bisogno di scaricare una valigia, di avere la scaletta, perciò questi signori verranno probabilmente rioccupati, si mormora, in società nuove o esistenti dell'handling, dell'assistenza a terra, ma con contratti diversi. La figuraccia mondiale, considerate che ad agosto viaggiano mediamente su Fiumicino 50.000 persone, è concreta, ma soprattutto ieri è arrivato a Roma James Hogan, che è il CEO di Etihad, che doveva limare gli ultimi dettagli, è stato dai suoi consulenti, si è visto con gli amministratori delegato e il presidente di Colaninno e del Torchio. E James Hogan ovviamente non è abituato a queste sceneggiate, diciamo così, all'italiana, anche perché nell'aeroporto internazionale di Abu Dhabi e in quello di Dubai i servizi di handling vengono gestiti da personale che arriva dal sud-est asiatico, dall'India, e perciò con contratti molto molto vincolanti e il passaporto in mano al datore di lavoro, che può prenderti e mandarti via, perciò non capisce queste dinamiche italiane. Il problema vero forse è che per prendersi all'Italia Etihad ha posto delle condizioni, come aveva fatto prima con Air Berlin e con altre compagnie che stavano messe maluccio, ha messo delle condizioni molto molto stringenti rispetto al nostro diritto del lavoro. Adesso bisognerà vedere come al Ministero dello Sviluppo Economico se ne uscirà. Considerate che negli ultimi anni sono arrivati per il fondo volo, che è quel cuscinetto di ammortizzatore sociale dell'INPS, del personale del trasporto aereo, sono arrivati diverse decine di milioni, 28 nel 2013 e una 36 più o meno ne arriveranno nel 2014. Il problema è che questo fondo non è abbastanza capiente per, non ha soldi per intenderci, per garantire ai personale in esubero e perciò che verrà messo in mobilità quando e come la procedura tra sindacati e aziende troverà un compimento, non ha soldi abbastanza per garantire lo stipendio a queste persone che hanno diritto, secondo il loro contratto, all'80% dell'ultima retribuzione, coperta in parte da ammortizzatori sociali, CIG, CIG in deroga, mobilità, e in parte all'integrazione di questo fondo. Perciò il governo dovrà trovare all'interno, non si sa dove, di quale capitolo di bilancio, altri soldi per coprire la situazione dei 2100 lavoratori dichiarati in esubero, per cui il handling, ma non solo, cioè, ci sono anche 1300 contrattisti a Fiumicino e in Alitalia che lavorano con contratti annuali, dalla vecchia Alitalia alla nuova CAI sono stati assunti 1300 contratti a tempo determinato, ma sono persone che lavorano lì da 4, 5, 6 anni. Come al solito, no? Per non assumere, allora si fanno questi contratti che si protraggono, però poi quando, insomma, è tutto un cane che si morde la coda questa situazione. Però Antonio, ci abbiamo fatto una figuraccia alla fine, ogni volta, e soprattutto Fiumicino, diciamo, alla bandierina delle figuracce, perché ogni estate è un dramma a bagagli. Allora leggo intanto qualche sms dei nostri ascoltatori. Agli italiani non interessa la legge sul Senato e per elezioni, ma uscire da questa gravissima crisi si deve abbattere il grosso debito pubblico e non uscire combattute che prima o poi, come l'estate che verrà. C'è una piccola battuta anche sul tuo giornale che dice: sui conti il governo ormai fa cabaret, la ripresa è come l'estate, prima o poi arriva. Ricordiamo che Padoan sul Sole 24 Ore dice che però il problema del debito e è proprio far ripartire la crescita, lo dice al nostro direttore. Degli aumenti dei vitalizi, chiede un radioascoltatore delle regioni, ne vogliamo parlare? Ecco, rimando a Repubblica su tutta un'analisi sulla spending review, ma il vostro ospite è re dei gufi, dice Raffaele da Piacenza. No, stiamo cercando di analizzare la situazione, meglio prepararsi al peggio, così almeno si evita, no? Diciamo noi. Che Renzi fosse un enorme bluff, dice Armando, molti l'avevano capito. Intanto invece Fabrizio da Sondrio lo difende, è stato l'unico governo che ha dato qualcosa ai redditi più bassi, quindi radioascoltatori divisi. Il nero emerge, dice Giorgio, abbassando la tassazione e consentendo la detrazione delle fatture ai privati. Poi vuoi vedere che conteranno a pagare gli statali con ulteriori mancati rinnovi, dice un altro radioascoltatore. Si vuole far ripartire l'Italia, IVA al 10% su tutto, vi sarà l'aumento dei consumi, dice Valerio. Allora dobbiamo dare questa ricetta, mi raccomando, l'IVA al 10%. Le colpe della situazione all'Italia sono tutte di Silvio Berlusconi, dice un altro radioascoltatore, che nell'estate del 2008, dopo la caduta di Prodi, perché Prodi stava per salvare l'Italia, questo secondo il radioascoltatore. Insomma, Antonio, vediamo che i nostri radioascoltatori sono molto attenti alla crisi, perché è inutile, poi purtroppo l'Istat alle 10 darà questi dati che oramai sono noti, insomma, che praticamente la crescita è zero. E mi fermerei per chiudere con il tuo giornale, ricordiamo Libero, perché avete un'intervista al ministro Alfano, quindi passiamo a parlare di altro, che ha cacciato l'imam anti-ebrei denunciato da Libero. Cioè, ieri voi avete scritto un articolo su questo imam di San Donà del Piave che aveva detto Allah dice, che ovviamente non è vero, mi sembra evidente, che bisognava uccidere tutti gli ebrei, e adesso subito il ministro Alfano ha deciso l'espulsione di questo imam. Quindi, insomma, una denuncia che bisogna sempre continuare a fare sui giornali. Questo è un punto a vostro favore. Forse i giornali sono utili, al contrario di qualche politico che vorrebbe chiuderli. Forse sono utili anche se soltanto riescono a portare una notizia, a compimento un atto di giustizia, perché se una persona, che sia un imam o che sia una guardia svizzera, dice che qualcuno va ucciso, forse i giornali hanno svolto il loro lavoro. Io mi permetto di segnalare la storia di una famiglia del nord Italia, 5 figli, una mamma che è rimasta vedova perché è morto il padre, e è rimasta anche senza un figlio perché è morto l'anno successivo, che non riesce a incassare, o meglio, riesce a incassare la pensione di reversibilità del padre, ma purtroppo per le normative fiscali questi ragazzi, che sono tutti in età scolare o universitaria, non riescono ad avere i benefici di legge, perciò biglietti sgravati per l'autobus piuttosto che la contribuzione di vantaggio per la mensa universitaria, perché la normativa fiscale li prevede come soggetti fiscali unici e le detrazioni vengono ridotte. Renzi ci ha promesso, perché l'abbiamo scritto qualche giorno fa, che sarebbe intervenuto. Forse iniziare da questi piccoli interventi, la cacciata dell'imam piuttosto che la famiglia con 5 figli che è incappata in un vulnus normativo e fiscale, forse la gente chiede proprio questo, e gli 80 euro sono un segnale, sicuramente, nessun gufo. Il problema è che se si continua a promettere e poi i decreti attuativi ristagnano tra una stanza del Ministero, la Ragioneria Generale dello Stato, la Corte dei Conti che deve bollinare, e poi ritornano indietro perché c'è un errore, e poi si fa qualche pasticcio nottetempo in Commissione, perciò si introduce una norma per salvaguardare qualcuno e fregare qualcun altro, evidentemente, e allora questo Paese non va da nessuna parte. Forse servirebbe una grande operazione verità, dire: signori, qui non c'è più un euro, bisogna fare un sacrificio. E allora l'evasione, sicuramente, se poi si fanno provvedimenti per mettere il posto per pagare il dentista, ma poi non si mettono penalità per chi non, sì, non questa è tracciabile. Sì, questa è stata l'assurdità. Allora, Antonio, sentiamo anche i nostri radioascoltatori che dicono. Che voti aveva Renzi in matematica e che fine hanno fatto i Marocci, chiede Mauro da Udine. Poi all'Italia la solita vergogna, ma dove si danno 7 anni di cassa integrazione? Basta con l'Italia, sei in perdita ormai da millenni, deve fallire come ha fatto la Swissair e altri, dice Micheli. L'Italia è già morta, sepolta dalla sua stessa classe politica. Segnalo sulla Stampa un'intervista a Federica Guidi. Crescita, ora arriva il contrattacco, il ministro dello sviluppo, i numeri sul PIL non sono buoni, ma i segnali positivi non mancano. Chi vuole investire in Italia deve avere un interlocutore solo, dice il ministro. Dobbiamo accorpare le strutture esistenti da ICE a Invitalia. Lavoreremo per fare in modo che l'Italia resti nella siderurgia, va difesa il lavoro, ma anche la gestione delle materie prime. Cambiamo argomento, e questo è l'argomento, il tormentone della giornata. Si appresta ad essere il patto segreto tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, il famoso patto del Nazareno. A questo proposito vi segnalo 2 editoriali all'opposto uno dell'altro. Il primo è sul Fatto Quotidiano ed è a firma di Antonio Padellaro, ne leggeremo un pezzettino adesso, e l'altro è a firma di Alessandro Sallussi sul Giornale. Allora, confesso di aver letto con somma curiosità l'intervista a Matteo Renzi uscita lunedì su Repubblica, alla ricerca di un nome, quello di Romano Prodi. Come in nostri lettori sanno il fatto, impegnato da tempo nella ricerca dell'autentico patto del Nazareno, faticosa al pari della ricerca del mitico vello d'oro che aveva il potere di guarire le ferite, questo Padellaro, mentre qui più modestamente si tratta delle tavole della legge sottoscritte da Renzi con Berlusconi un fatale giorno di febbraio, ma che nessun altro, a parte i complici, ha potuto leggere, forse perché l'accordo con un pregiudicato contiene sempre qualcosa di compromettente. E siccome il diavolo non fa i coperchi, qualcosa pian piano da quella strana pentola comincia a tracimare e non ha un odore gradevole, per esempio che il successore del napoletano pro tempore non ha da essere quel Romano Prodi inviso all'ex cavaliere. Invece Sallusti scrive: il tormentone politico dell'estate è il fantomatico patto segreto tra Berlusconi e Renzi, già conosciuto come il patto del Nazareno dal nome della sede del PD, dove il 18 gennaio scorso avvenne lo storico incontro, vabbè, Sallusti sembra che è l'incontro tra Vittorio Emanuele II e Garibaldi, lo storico incontro tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, che diede la via alla tormentata stagione delle riforme. Alcuni giornali, alcuni partiti, 5 Stelle in primis, non si danno pace. Sul Fatto Quotidiano ogni giorno leggiamo nuove ipotesi di accordo indicibili che spaziano dal futuro di Mediaset a quello di Prodi. Non mi stupirei se alla lista dei complotti si aggiungesse quello di portare Inzaghi al Milan e magari un giorno la Fiorentina in Champions. E secondo Sallusti sul giornale dice: su questi patti chissà perché nessun giornale indaga, anzi, anche se la violazione della democrazia, tre governi non eletti e perdita di sovranità è stata infinitamente superiore a qualsiasi cosa si possano essere detti Renzi e Berlusconi al Nazareno, anche perché conoscendo la loquacità dei due si sarebbe trattato di segreti di Pulcinella. Allora diamo la linea alla regia e poi una battuta finale con Antonio proprio sul patto del Nazareno. In primo piano. Allora, di nuovo in onda qui da Roma per chiedere ad Antonio Castro di Libero, poi lo salutiamo, che cosa ne pensa del patto segreto del Nazareno. Esiste, non esiste, c'è questo stop a Romano Prodi? Tanto qui si può, questo è fantapolitica, uno può dire tutto il contrario di tutto. Quello che vuole, a me sembra che la cosa più importante l'abbia detta un nostro ascoltatore, ovvero agli italiani interessa ben poco, e forse l'ha replicato Padoan in altre parole dicendo: si stenta a uscire dalla recessione, le riforme vanno fatte in fretta. Forse il peccato originale è stato quello di dare più importanza alle riforme istituzionali, costituzionali, piuttosto che a quelle economiche. E è come un condominio, se si sta a discutere se dare la vernice arancione o rosa e intanto non si fanno interventi di stabilità per aprire le porte, per far accedere i condomini, forse era più importante, più urgente intervenire sulla stabilità del condominio Italia piuttosto che sul colore della vernice del palazzo. Io ho questa sensazione, sarà che sono 20 anni che seguo l'economia, mi sembra che le promesse siano tutte belle e tutte condivisibili. Chi è che non vuole 80 euro, chi è che non vuole un fisco più semplice, chi è che non vuole la dichiarazione precompilata? Peccato che dalla promessa all'attuazione passino poi decreti attuativi, burocrati che si oppongono, signori che ritardano, manine in Parlamento che non hanno il problema degli 80 euro e che forse ritardano anche queste riforme. Forse ci vuole un'alleanza tra il governo e gli italiani per dire: signori, bisogna remare tutti alla stessa parte, però a iniziare dal Parlamento e dal governo che remino tutti alla stessa parte. Vediamo che cosa succede, domani dovrebbero approvare questa riforma, questo primo sì, ricordiamo, perché io ho letto anche l'approvazione finale avverrà fra 6 mesi, cioè prima ci sarà l'approvazione alla Camera, poi ci deve essere un doppio passaggio, insomma il cammino è molto lungo, fra un anno forse vedrà la luce il nuovo serato non elettivo. Ringraziamo Antonio Castro di Libero che ci ha spiegato anche cosa succedeva nel caos Bagagli e in Alitalia. Grazie Antonio. Buona Buona giornata, grazie a voi. E noi prendiamo spunto dal fatto che ci sono molti sms, appena ho nominato il Movimento 5 Stelle, figuriamoci se non era colpa del Movimento 5 Stelle, ci chiede Federico, ma da un'altra parte c'è un radioascoltatore che dice che il Movimento 5 Stelle sta perdendo. Ecco, 5 Stelle parlano troppo e sembra che sappiano tutto loro, la smettessero, Antonio. Allora, sui 5 Stelle segnalo quindi, per chi fosse appassionato ai grillini, un editoriale di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, come disperdere un patrimonio. Esiste un confine tra la protesta e la sceneggiata, tra la critica anche dura e la sparata quotidiana. Sentiamo un po'. Allora, in verità io un po' di tempo lo voglio prendere per dire che in quest'aula si sta commettendo un abominio e la storia vi condannerà. Ci sono delle persone qui fuori che non hanno pane, cosa gli diciamo? Ci sono le riforme? Allora io non riconosco più l'autorevolezza. Lei ha il tempo per illustrare l'emendamento, la prego, si attenga al tema dell'emendamento. Mi sono preso il tempo invece per dire che io non ci sto a questo abominio della nostra libertà. Va bene, grazie. Ecco, qui abbiamo sentito questo passaggio ieri al Senato tra Sergio Puglia, senatore del Movimento 5 Stelle, e il presidente del Senato Grasso. Aldo Cazzullo dice: la battaglia contro una riforma che non convince i costituzionalisti e non appassiona certo i cittadini è senz'altro legittima, ma i grillini non sono riusciti ad aggregare il dissenso né dentro né fuori dal Senato e ne escono di fatto sconfitti, con il consueto corollario di scene imbarazzante e difficili. Difficoltà ortografiche, ricordiamo il cartellone con scritto qual è, con l'apostrofo scritto anche dalla Lega. Mentre i parlamentari dimostrano la loro inadeguatezza, il comune più importante conquistato dai 5 Stelle alle ultime elezioni, Livorno, si schiera in difesa di Stamina. Alla crisi del movimento si aggiunge quella del leader. Beppe Grillo in questi anni ha dimostrato straordinarie doti di rabdomante e di comunicatore, ha intercettato e dato voce a un disagio trascurato dai partiti, ma ora appare intento a disperdere quel patrimonio con una serie di dichiarazioni balneari. È l'unico politico già in vacanza, con cui un giorno definisce Bossi il più grande statista degli ultimi 50 anni e il giorno dopo sostiene che i suoi avversari sono peggio di un dittatore da migliaia di morti, in un crescendo che sarebbe ridicolo se non fosse preoccupante. Come disperdere un patrimonio? L'editoriale di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. Il Corriere della Sera parla anche di riforma del giustizia, processi, cambia la prescrizione, il piano del governo sulla giustizia, priorità alle cause civili, riforma della giustizia, progetto del governo per allungare i tempi di prescrizione, riforme al Senato, passa per pochi voti il no ad amnistia ed indulto. Domani è previsto in aula l'intervento del premier Matteo Renzi a Palazzo Madama e poi a un certo punto sulla prescrizione si ritorna ai tempi graduati secondo la gravità del reato. Lo stop dopo il primo grado durerebbe 2 anni, dopo l'appello sarebbe di 1 anno. Quindi abbiamo anche questo altro tema importante che è l'apertura del Corriere della Sera, e rimando anche a un articolo su Repubblica di Liana Millella proprio su questo tema. Invece vogliamo parlare dell'apertura della Stampa, perché c'è questa intervista a John Kerry, al segretario di Stato americano. Gli Stati Uniti sostengono l'agenda economica per la crescita che l'Italia sta promuovendo in Europa, chiedono all'Unione Europea di restare compatta nel fronteggiare la Russia e l'Ucraina e aiutare la popolazione a Gaza. Lo fanno attraverso il segretario di Stato John Kerry, che in questa intervista esclusiva con la Stampa discute le priorità nel rapporto fra USA e Unione Europea durante il semestre italiano. E dice: signor segretario, quali sono le questioni più pressanti su cui gli Stati Uniti vogliono lavorare lavorare con l'Europa nei prossimi mesi, abbiamo molti temi in agenda, siamo felici di lavorare con l'Italia durante la sua presidenza dell'Unione Europea, puntiamo a una partnership ambiziosa con la nuova leadership dell'Unione Europea nel Consiglio, la Commissione e il Parlamento. Oggi c'è una regione, un tema su cui gli Stati Uniti e l'Unione Europea in cui Stati Uniti e Unione Europea non siano strettamente coordinate. Una delle sfide più grandi è la crisi ucraina, il tragico abbattimento dell'aereo malese che ha tolto la vita a così tante persone innocenti, la maggior parte dei cittadini UE, sottolinea il pericolo che la situazione attuale presenta per tutti noi. Dobbiamo mettere fine a queste crisi ora, dobbiamo impedire che questo genere di eventi terribili possa accadere ancora, e soprattutto si parla poi delle sanzioni a Mosca, se saranno sufficienti, hanno avuto un impatto sulla Russia, dice Kerry, e quando gli USA e l'Europa sono uniti l'impatto può essere profondo. Quindi rimando per la stampa a questa intervista, ma noi vi vogliamo lasciare con un attimo argomenti un pochino più positivi, visto che si attendono questi dati Istat che saranno negativi per l'economia. Intanto sulla Gazzetta dello Sport, in un piccolo articolo, ma una chicca che mi ha fatto notare proprio il nostro regista Valerio Rocchetti, Zanardi e la sua vita da superuomo, un'altra lezione per non mollare mai. Più che un uomo e un superuomo, Alex Zanardi si è inventato un'altra sfida, una di quelle che soltanto a parlare ti fanno male i muscoli e i polmoni. Poi pensi che lui farà tutto a forza di braccia e capisci, dentro quel corpo dimezzato dall'incidente del settembre 2001 non c'è un uomo ma un superuomo. L'11 ottobre Alex andrà in gita alle Hawaii, non per una vacanza ma per partecipare a un vero e proprio campionato del mondo di triathlon, il mitico Iron Man, uomo d'acciaio. Il programmino che lo aspetta è costruito con 3,86 km di nuoto, poi c'è ciclismo, hand bike per lui perché appunto non ha le gambe, e poi c'è anche la corsa, una vera e propria maratona in carrozzina. La domanda che gli viene da fare è: ma sei scemo? La risposta, con il suo sorriso coinvolgente e gli occhi che brillano, è come un ragazzino caduto in un barattolo gigante di Nutella. Questa è l'Italia che ci piace. Sempre però sulla Gazzetta dello Sport, il tormentone della FIGC, che è praticamente il tormentone dell'estate. Tavecchio bloccato, i conti non tornano, il CONI pensa al commissariamento, finale a sorpresa, prima o dopo l'11 agosto il pronostico di Giovanni Malagò continua a far bollire telefoni e poste elettroniche del calcio italiano. E quindi ritiro dei due candidati alle prossime ore, fumata nera, elezione di Tavecchio seguita da una richiesta al CONI di nominare un commissario ad acta per la revisione dello statuto, commissariamento straordinario, ci si può veramente sbizzarrire. Però insomma, questa elezione di Tavecchio sembra essere molto molto ballerina. Nuova squadra Ballarò e rafforzo per l'intera rete, Giannini, vice direttore di Repubblica, sostituirà Floris. Questa è l'ultima notizia, io do la linea al GR, poi ad Irene Zerbini. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito, da Valerio Rocchetti e da Radio 24.